24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad una nuova edizione di 24 ore in Europa. Andiamo subito a Berlino per il faccia a faccia tra il premier italiano Mario Monti e la cancelliera tedesca Angela Merkel. I tassi di interesse sul debito italiano non sono più giustificati, visto lo sforzo dell'Italia, che anche gli stessi mercati apprezzano, ha detto il nostro presidente del Consiglio, che ha aggiunto: l'Europa non ha più nulla da temere dall'Italia. Sentiamo Monti. Ho anche illustrato alla cancelliera lo stato d'animo con il quale gli italiani hanno dato larga adesione alle misure anche dure, molto dure, che il governo ha dovuto adottare. Questo è stato un atteggiamento di grande maturità da parte degli italiani e che al tempo stesso merita non ricompense da parte dell'Europa, perché, come ho sottolineato, le misure che abbiamo adottato le abbiamo adottate nel miglior interesse dell'Italia, ma merita un riconoscimento da parte dell'Europa, la quale non deve più temere un'Italia possibile fonte di infezione per la zona euro, ma al contrario può contare su un'Italia pronta a fare pienamente la sua parte accanto alla Germania, accanto alla Francia, accanto agli altri paesi, nella conduzione dell'Europa verso la stabilità e lo sviluppo. Da Berlino, Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Il condizionale è d'obbligo, ma se i gesti, le occhiate e soprattutto il linguaggio di Mario Monti e di Angela Merkel nel palazzo della Cancelleria di Berlino hanno qualche significato, possiamo dire davvero di essere vicino a uno di quei momenti magici dell'Europa che è capace di risollevarsi quando tutti la davano ormai per spacciata. Un momento di quelli che possono contribuire a cambiare la storia della più bella costruzione dell'umanità, come l'ha definita il premier italiano. Nel dicembre 89, davanti a un caminetto in terra francese, il cancelliere tedesco Helmut Kohl chiedeva la riunificazione tedesca, accettando l'euro. E oggi, 22 anni dopo, la cancelliera tedesca capisce la responsabilità che ha nel risolvere i problemi dell'eurozona. Il 20 gennaio a Roma la cancelliera Merkel, insieme al presidente francese Sarkozy e al premier italiano Mario Monti, metterà nero su bianco un accordo che possa servire per creare quel muro di fuoco in grado di frenare la speculazione internazionale, un accordo che dovrebbe creare le migliori sinergie tra il nuovo ESM, il European Stability Mechanism, e la BCE. Gerardo Pelosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Angela Merkel ha rilasciato un'intervista alla RAI in cui ha detto che tagli, regole, sacrifici e aiuti devono procedere insieme. La strada percorsa attualmente in Europa, ha aggiunto la cancelliera tedesca, non è altro che la conferma delle promesse di 10 anni fa. La Germania, ha concluso la Merkel, non sta chiedendo nient'altro se non l'applicazione dei trattati. Ed è stata una seduta prudente per le borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,19%, Francoforte ha perso lo 0,17%, Madrid lo 0,54%, Londra ha lasciato sul terreno lo 0,45%. Positiva Milano. Banche sotto i riflettori a Piazza Affari in una seduta nel segno dell'incertezza alla vigilia del vertice della Banca Centrale Europea, che fornirà indicazioni sulla politica monetaria dell'Eurozona. Il FTSE ha fatto segnare più 0,23% e il FTSE MIB più 0,25%. Il rialzo delle banche è stato guidato da BPM più 9,4%, che ha festeggiato così la nomina di Piero Montani alla guida dell'istituto. Bene anche MPS più 8% e Unicredit più 5,5%, che tenta il recupero dopo i recenti scivoloni. Al di fuori del settore, gli investitori hanno premiato Autogrill più 4%, che ha ampliato la partnership internazionale con le caffetterie Starbucks. Giornata difficile invece per Pirelli, meno 4,5%, che ha risentito delle indicazioni sull'andamento del mercato arrivate dalla statunitense Goodyear. Paolo Paronetto da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riflettori sempre puntati sull'Ungheria. A Budapest per noi c'è Gigi Donelli. Afflitta dalla crisi economica e nel pieno della trattativa con il Fondo Monetario Internazionale per la concessione di un prestito da 20 miliardi, Budapest parla in serata attraverso il portavoce del governo Orban per dire che l'Ungheria è uno stato di diritto impegnato nei valori universali europei. Sul capo del leader della destra ungherese il rischio di essere il primo paese dell'Unione a subire il blocco dei fondi di coesione. Olli Rehn, commissario UE agli affari economici e monetari, aveva definito insufficienti le misure assunte nei giorni scorsi dal governo magiaro per risanare i conti pubblici. Evoca l'ombra di un non meglio precisati attacchi internazionali il presidente dell'Ungheria Schmidt, fedelissimo di Orban ed eletto dalla sua maggioranza, ma le sue parole si scontrano con quelle dell'ex premier Gordon Bainai, economista a capo di un governo tecnico 3 anni fa. Per Bainai l'Ungheria è oggi un paese con una democrazia spezzata, un'economia in rovina, una società divisa dall'odio che si allontana pericolosamente dall'Europa lungo sentieri estremamente pericolosi. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Budapest. Andiamo in Siria, dove un agguato ha colpito 2 giornalisti francesi e c'è una vittima. Dalla Siria l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Un pulmino di giornalisti è stato attaccato e colpito da una granata, da un razzo RPG, un razzo anticarro. Questi giornalisti erano accompagnati da funzionari del Ministero dell'Informazione. C'è una vittima, un ferito. La vittima, il morto, è Gilles Jacquier, che è un giornalista di France 2 e si trovava tra l'altro a Homs accompagnato dalla moglie Caroline Poiron. Questa coppia era qui a Damasco, proprio nell'hotel dove mi trovo io, il Fardos Tower, nel cuore della capitale siriana. È un episodio questo, evidenzia ancora una volta la mancanza di sicurezza e il fatto che diverse zone di questo paese siano ovviamente fuori dal controllo del regime. I giornalisti non sono molti, tra gli italiani credo di essere l'unico, ma non sono del tutto sicuro, non ne ho visti altri. Ci sono delle troupe giapponesi, una troupe della TV spagnola, qualche troupe francese e olandese e CNN, ma sono pochi i giornalisti stranieri che in questo momento sono entrati in questo paese. Le situazioni a rischio sono diverse e evidentemente nelle zone dove è stata più forte le manifestazioni contro Assad e contro il regime in questi mesi, una di queste sicuramente Homs, che tutti definiamo un po' la fortezza di questa insurrezione contro il regime di Bashar Assad, ma anche Daraa, dove sono stato ieri, nel sud, dove tutto è cominciato, tra l'altro, ma anche la capitale non è del tutto sicura, soprattutto nei quartieri periferici e di notte. Ecco, lì comincia una storia parallela, una storia diversa da quella che vediamo durante la giornata, quando la capitale naturalmente è piena di traffico, di gente, e oggi si è riempita, tra l'altro, per il comizio che ha tenuto Bashar Assad in piazza, uno dei primi, uno dei pochi che si ricordano, a cui era presente, forse per ostentare sicurezza, anche la famiglia del presidente, la moglie e quei 2 figli. Entreranno in vigore alla fine del mese le nuove sanzioni dell'Unione Europea contro l'Iran. La presidenza danese dell'Unione ha confermato che il Consiglio Europeo annuncerà nuove sanzioni contro l'Iran. Il regime iraniano persegue una politica nucleare che preoccupa l'Occidente. L'ipotesi di nuove sanzioni non fa l'unanimità, soprattutto per quei paesi come l'Italia o la Grecia che dipendono dal petrolio iraniano. Ma le pressioni per nuove azioni punitive contro Teheran stanno aumentando e scelte in questo senso sono probabili in occasione del Consiglio europeo del 23 gennaio. Presentando qui a Copenaghen il programma della presidenza danese, il ministro degli esteri, Willy Sondale, ha confermato solennemente che il paese difenderà l'opzione che gli permette di non adottare la moneta unica. Un referendum sarà invece organizzato in un altro campo nel quale è esente per ora dalle regole europee, la giustizia. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Copenaghen. In chiusura andiamo in Francia per uno scandalo che getta ombre sulla polizia. Uno scandalo rischia di travolgere la prefettura di Parigi alla vigilia dell'atteso voto elettorale e rischia di essere un nuovo colpo per Nicolas Sarkozy. Sotto accusa l'Ispettorato Generale dei Servizi, la polizia della polizia francese, accusata di aver manipolato di proposito nel 2007 alcuni documenti per gettare fango sulla Direzione Generale della Polizia. A rivelare le vicende il quotidiano Le Monde. Con l'approssimarsi delle elezioni presidenziali, l'obiettivo sarebbe stato quello di ledere la reputazione di Yannick Blanc, allora direttore generale della polizia, del suo vice e di un terzo funzionario addetto alla sicurezza del ministro degli Interni. 3 uomini giudicati troppo lontani dall'entourage sarkozista e troppo vicini al Partito Socialista. In tutto 5 funzionari sono stati incriminati per poi essere completamente assolti nel gennaio 2011 dalla Corte d'Appello di Parigi. Ma ora i giochi potrebbero riaprirsi visto che 4 giudici istruttori hanno aperto 6 differenti dossier sulla polizia della polizia. In uno di questi è coinvolto il prefetto della polizia di Parigi, Michel Godin, pilastro del sistema sarkozista appunto, già interrogato il 15 dicembre in qualità di testimone. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.